rien. Non, je ne regrette rien. La virgola di Elisabetta. Ciao a tutte. Siamo tutte e tutti colpevoli? Da più di 20 anni assistiamo all'applicazione di una teoria che possiamo definire colpevolizzante da parte del sistema socio-economico nei riguardi delle cittadine e dei cittadini. Prima ci ha pensato la socialdemocrazia, che in tutti questi anni ha attuato un ipocrita, strumentale e fuorviante coinvolgimento nelle pratiche cosiddette politicamente corrette. Dalla demonizzazione di chi scrive sui muri, di chi fuma, di chi non sa vivere civilmente, tra virgolette, alla necessità di aiutare sempre, tra virgolette, attraverso onlus, ONG o associazioni a vario titolo socialmente utili, le popolazioni del terzo mondo, dalla raccolta differenziata dei rifiuti al riciclaggio delle cose usate e al consumo etico, sempre fra virgolette. Questa impostazione accompagna ormai da diversi anni ogni aspetto della vita sociale. Il traffico eccessivo è colpa nostra perché prendiamo la macchina senza motivo. Muoiono di fame i bambini nel terzo mondo? È colpa nostra perché mangiamo troppo e male. Ci sono troppi rifiuti da smaltire? È colpa nostra perché non facciamo come si deve la raccolta differenziata. Si muore di tumore al seno? È colpa nostra perché non rispondiamo adeguatamente alle campagne di prevenzione. Tutto ciò è profondamente ipocrita perché tace scientemente che questo modello economico-sociale non può prescindere da una spinta sempre più forte al consumo, che nei paesi del terzo mondo la gente muore di fame perché l'espansione del capitale fa razzia di ogni ricchezza e divora l'economia di sussistenza, che i tumori al seno di qualsiasi altro tipo vanno di pari passo al degrado del nostro habitat. È un'operazione strumentale perché tende a coinvolgere la cittadina e il cittadino in prima persona nelle sorti del capitale ed è fuorviante perché vuol far credere che così facendo si possa migliorare questa società. Ma questo modello colpevolizzante si è sovrapposto ad un altro modello altrettanto colpevolizzante ed attualmente vincente, quello neoliberista, di cui la socialdemocrazia non a caso sponsorizza i valori a spada tratta. Il modello neoliberista, profondamente reazionario, con punte clericali e fasciste, che ha smantellato lo Stato sociale, ha aumentato a dismisura la platea delle povere e dei poveri, ha reso normale e normata la disoccupazione di massa, punta anch'esso alla colpevolizzazione delle cittadine e dei cittadini. Si privatizza il servizio pubblico perché i dipendenti pubblici sono dei fannulloni. Si fanno le guerre neocoloniali perché l'Occidente pretende un tenore di vita eccessivo. Ci sono i disoccupati perché sono privi di ambizioni e vogliono il posto sicuro. C'è il problema delle pensioni perché quelli dal posto fisso sono gretti ed egoisti e non fanno largo ai giovani. C'è il debito pubblico, anzi, ogni bambino nasce con una quota di debito a testa, colpa dei genitori che sono stati dissipatori, farfalloni e pieni di pretese. La natalità è quasi a zero, colpa delle donne che non vogliono più fare figli. Ci sono tanti migranti sfruttati e sfruttati, sottopagati al limite della schiavitù, colpa delle italiane e degli italiani che non vogliono fare certi lavori e poi si lamentano. In questo modo le naturali declinazioni delle responsabilità legate all'accantonamento delle conquiste sociali vengono totalmente rimosse e addirittura rovesciate sulle vittime. Essere poveri e poveri è una colpa ed è un segnale manifesto di incapacità, come nella più classica tradizione calvinista, e la ricchezza è un segno della benevolenza divina. Disoccupazione, malattia, oppressione di qualsiasi tipo, compresa quella di genere, precarietà, povertà, non sono più il frutto di questo sistema socio-economico, ma sono le vittime a diventare colpevoli dei modi che questa società produce e dei dolori della loro stessa vita. La cittadina e il cittadino nella configurazione sociale neoliberista devono prendere atto della loro insufficienza, ignoranza, incoscienza, incapacità ed assumersene le responsabilità accettando di essere reiette perché questo si sono meritate. Le vittime della società divisa in classi e patriarcale, del modello basato sullo sfruttamento e sul profitto più sfrenato, nel momento in cui si rifiutano di mettere in atto le scelte loro suggerite, diventano responsabili dei crimini della società stessa. Questa lettura introduce quindi la criminalizzazione della povertà, della disoccupazione, dell'ignoranza ed è una forma di razzismo sotto mentite e negate spoglie, trascinato dal colore della pelle alla condizione, alla nascita, al genere. E viene attuata con un meccanismo ormai sfacciato, stigmatizzare di volta in volta alcuni gruppi sociali per poi esporli alla collera popolare. Essere femministe oggi significa rompere con questi valori mortiferi, sottraendoci tutti i giorni e in tutti i momenti della nostra quotidianità. Significa rompere la sottrazione al controllo, ribaltare la colpevolizzazione in cui ci vogliono invischiare, recuperare la capacità di indignarci, promuovere la criticità verso la meritocrazia, la gerarchia, l'autorità, smascherare l'uso improprio di parole come democrazia, riforme, partecipazione, spezzare l'ipocrisia in cui ci vogliono imbrigliare. Significa non sostenere mai questo sistema, neppure se le richieste sono mascherate da nobili motivi e nobili intenti, tra virgolette. Non aiutare mai questa economia che trasforma tutto, dalle buone intenzioni alle catastrofi, in estorsione del plusvalore. Significa cercare di innescare meccanismi di uscita da questa società. Ciao! Rien.